That you always says you're listening to Fabio B and Johnny and Move Fire every time, okay? Yeah. Big up. Code name Move Fire on the run. Code name Babylon Action. Code name Move Fire on the run. Radio Babylon Action. Well, we have the lyrics weapon. It brandish when the dance get ram. We start fling down the Roseman pattern. Full of knowledge and of wisdom. Some of them are come with an imitation. Born on the same day but a different pattern. But when you see the more fire show up on the run, you know say this your one when I ramp with the plan. Hey yo, tune in to the More Fire Show. This is Brother Culture. Big up the Under Rasta, massive every time. Right. Mother, I miss you now. Ooh. Rejoice, rejoice. Good tidings I give you. Yeah, yeah. A message you, my friends. Voices cry, call up your angels. When pressure drop, cannot conquer dread, no. So blow away your bluesy feeling. Spirit say, world off your shoulder. One foot in the grave, foolish step to take. Whoso in jail shall reap in joy. Wise men doctrines. Sure, yes, safety. No more stumbling block. Backstabbers get down. Oh, to the righteous reveal secret of the scriptures. The wicked abortion vanity. Disciples of Lucifer. Yeah. In your hands lie your destination. The book of true life, you hold the key. Mystical powers to you unfold. Seek ye the half that has never been told. Get behind me, Satan. Get. Step back with Satan. Cause I chant a psalmody, I want to chant. A psalmody, I've got to chant. A psalmody, I want to chant. Chant a psalmody. Hey. Chant a psalmody. Chant a psalmody. Chant a psalmody. Chant a psalmody. Moses it did. Isaiah it did. Jeremiah it did. So, I want the world life with a chant. Solomon it did. It's Papa King David. Ruby Hines now chant. I want the world life with a chant. I want the world life with a chant. A Ruby Hines not chain. I want the whole life with it chain. Z want the whole life with it. Z want the whole life with it. Z want the whole life with it. What a buonasera e benvenuti o ben rimasti sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Questo è Morfire Reggae Radio Show, programma reggae del martedì notte, che va a iniziare questa puntata interamente dedicata agli Steel Pulse, la leggendaria band britannica, in occasione del loro concerto live questo sabato a Roma. Quella che ascolteremo è una playlist con un mix di tracce iconiche e più recenti, mentre in apertura abbiamo sentito David Hines, leader del gruppo, in acustico con Chant a Psalm. E andiamo un po' a ripercorrere la loro carriera con l'album d'esordio Answer Revolution del 1978 e la traccia omonima, All Fire. Thank you. Sentito gli Steel Pulse nella loro formazione originale con Answer Revolution, dedicata al loro quartiere di provenienza e alle tematiche di razzismo e ingiustizia urbana, presenti anche nei prossimi singoli estratti dall'album, ovvero Prodigal Son e la leggendaria Ku Klux Klan. Questa era Prodigal Song, chiaramente ispirata alla parabola biblica del figlio il prodigo, brano di denuncia verso la disillusione della vita moderna e con il richiamo alla rasta a ritorno alla propria terra e quindi alla purezza culturale e spirituale. Saltiamo quindi al 1982 all'album True Democracy con Your House, uno dei più grandi classici degli Steel Pulse. Oltre all'interpretazione romantica di vivere nella propria casa come metafora di unione profonda, il brano ha radici militanti ispirate all'irruzione della polizia nella casa della band nel 1978 e quindi la violazione del rifugio sicuro da parte dell'oppressore. A seguire ascolteremo un altro anthem tratto dallo stesso album, ovvero Rally Round, inno panafricano che invoca l'unità sotto i colori rasta. Si rifà infatti a Rally Round the Flag, citando Marcus Garvey, con i colori che simboleggiano il rosso per il sangue versato, il verde per la terra d'Africa, il giallo per l'oro rubato dai colonialisti e infine il nero per il popolo depredato e schiavizzato. Quindi un'esortazione alla liberazione. True Democracy, One God, One Aim, One Destiny. Your love is a light for I Siete sempre sulle frequenze di Radio Onda Rossa e questo è Morfire Reggae Radio Show in questa puntata monografica dedicata agli Steel Pulse, la storica band reggae di Birmingham, che sarà questo sabato a Roma live in concert a Via della Bella Villa 94 al Fusolab. Concerto che sarà aperto da un DJ set con il sottoscritto, Miss B Ranks, Top Ranking con Pier Tosi direttamente da Bologna e Giacomo Melody, e dal live delle Ice Shine che precede quello appunto degli Steel Pulse. Quindi questo sabato al Fusolab a partire dalle 19. Continuiamo il viaggio all'interno della discografia della band, passando al quinto album in studio, il primo uscito per la loro etichetta Wiseman Doctrine Record nel 1984. L'album è quello che nella copertina ritrae personaggi storici come il presidente americano Ronald Reagan, il leader sovietico Yuri Andropov e Papa Giovanni Paolo II. Tra l'altro la band metalcore Air Crisis prende il nome proprio da quest'album perché nella copertina erano raffigurate molte delle cose contro cui si sarebbero battuti. La tripletta che andiamo ad ascoltare è composta da due anthem come Stepping Out e Roller Skate e da Grub Education. Tutte e tre le tracce sono in qualche modo legate concettualmente dall'invito a ballare contro il sistema anche per tirarsene fuori e anche con un inno militante, quello di Grub Education, che esorta i giovani neri a prendere coscienza contro l'ignoranza del sistema culturale imposto dall'Occidente. Catch me if you can. Hey, says I'm stepping. I'm All right. Rieccoci in studio dopo il giro di boa, in questa puntata ricca di musica, as usual, con poche parole, dedicata agli Steel Pulse. E facciamo un salto temporale di 20 anni, sia per necessità proprio di spazio, che anche di scelta, perché infatti quei 20 anni sono stati anche anni con produzioni un po' più commerciali e morbide, se vogliamo. Arriviamo quindi direttamente al 2004 e all'album African Holocaust, nominato tra l'altro ai Grammy come Best Reggae Album, e ascoltiamo un estratto con il featuring di Damage Junior Gong Marley, ovvero la traccia No More Weapon. Yes. Siete sempre all'ascolto di Morfire Reggae Radio Show e quindi di Radio Onda Rossa, e quindi vi ricordo di sostenere la radio visitando le pagine all'indirizzo www.ondarossa.info per sapere come sostenerla, ma anche per trovare podcast, rassegne stampa e tutte le informazioni sulle prossime iniziative. Entriamo quindi nell'ultimissima parte della puntata, dove vi proponiamo degli estratti dall'ultimo album del 2019 intitolato Mass Manipulation degli Steel Pulse. A 50 anni quindi dall'uscita del primo album Enzo Revolution, la band che al tempo aveva catturato l'esperienza della seconda generazione di neri britannici con canzoni scritte a Birmingham nel pieno dell'ascesa del fronte nazionale di estrema destra, ritorna con tematiche sicuramente più attuali, che si concentrano quindi sul presente, dalla tratta degli esseri umani alla prostituzione minorile fino al cambiamento climatico. E anche se le tematiche possono sembrare più scontate, questo non toglie niente alla genuinità e alla spontaneità della esecuzione, soprattutto da parte del frontman David Hines. Andiamo quindi con l'ascolto in scaletta: Rise e Don't Shoot, registrati al Red Rock Park, e a seguire, estratti direttamente dall'album, ascolteremo Cry Cry Blood e l'inno di Nation of the World, che invoca l'unità globale. Got to get up and rise, rise, rise. Oh yeah. Some hurt for fallen soldiers, don't let them die in vain. Some hurt for freedom fighters, it's now that we feel your pain. Some hurt for so-called justice, martyrs sacrifice. Gun down during the protest, demanding our equal rights. Equal rights. Hey, rise, rise. Got to get up and rise. Rise, rise. Oh yeah. Built two goddamn countries, reaping no reward. Your wars, confined to the backs of the buses. We even took all of your blows. How we survived the burning crosses, only heaven knows. Heaven knows, heaven knows. Rise, rise, got to get up and rise. Stand up and rise. So rise, oh, so rise, oh. Got to stand up and rise. Your demise appear not wise. Got to move forward and rise. Got to get up. Got to stand up. Got to move on. Got to move forward and rise. Any treaties, yeah, with too much hypocrisy, yeah. Rise, get incarceration. We stood there by day. Whoa, rise, got to get up and rise, got to stand up and rise, got to stand up and rise. To move forward and rise, got to stand up and rise. Rise, is what I'm saying. And he was talking about we as the African race or the diaspora been through all kinds of trials and tribulations, you see what I'm saying. And we've sort of risen above that, and we've sort of uttered those sentiments in that particular song. Our energy counts on you, the people. You know, our energy has always been about how the crowd, how the audience, how our fan base will, you know, respond to what we're doing and what we believe in. Tell you this time around, Yes, we're gonna dry as this land right now. Our common goal is to stand our ground. You got the city on lockdown. Don't shoot, got my hands up. I put my hands up. What do you want from me? Don't shoot, got my hands up. I put my hands up. Hey, choking, I can't prepare. Statistics to the system. All kinds of crazy shit run through my mama mind. Will I live to raise my children? So let me tell you this time around. Yes, we're gonna try as this land right now. Is this defiance that's got me bound? You got the whole town on lockdown. Don't shit, got my hands up. I put my hands up. What do you want from me? Don't shit, got my hands up. I put my hands up. Yeah. I'm choking, I can't breathe. Yeah. I'm choking, I can't breathe. Yeah. I'm on bending knees. I beg you that there's a me. Curfew. Is it? Why you? Is it? Why you? Is it? We're all about theatre, we're all about choreography, and so we're all about getting closer to what really the heart needs to know, if you see what I'm saying. And I think when you sort of, the gunshot, especially when it comes through speakers that are amplified across a big auditorium, it speaks volumes, and it, you know, it's thought provocative. That's all about elevating the mind, thinking about, you know, humanity. And I'd like to know Steel Pulse played that part in stimulating those who are all about being humanitarian, if you see what I'm saying. So that's the legacy I'd like to leave behind. Who the hell do they think I am? Give me food from the pot bottom. Give me scrap from them table. Am I not desperate or disabled? In this land we live a doggy dog. The whole of them are going like hog. A simple thing will make me jump and bark. I grab a licious like a harbor shark. Cry blood. Cry blood. Cry blood. Cry blood. Cry blood. boy shanty eye. In a dispute that says I don't know why. Be careful of the flag now. Now put the lion on its back now. The discipline is to divide and rule. In a arena with the people lose. So many mothers try to put things right. But no, I and I won't keep out the fight. Cry blood. Es